falsificazione relativa a, a quello che sarebbe avvenuto a questo Papa Marcellino, vissuto al tempo della persecuzione di Diocleziano. La persecuzione di Diocleziano aveva messo a dura prova l'eroismo, no, della resistenza dei cristiani. Marcellino si sarebbe spaventato e non solo avrebbe consegnato ai pagani le sacre scritture, ma avrebbe sacrificato agli dèi, no, bruciando dell'incenso. Questa accusa era stata ripresa in ambienti donatisti alla fine del V secolo e avrebbe dato luogo, perché è tutto un falso questo, al cosiddetto sinodo di Sinuessa. Sinodo di Sinuessa che in presenza di molti alti prelati, in presenza cioè di un gruppo di accusatori che imputavano a Marcellino l'accusa gravissima di idolatria, di sacrificare agli dèi con l'incenso, questo sinodo di Sinuessa avrebbe lasciato un testo che appunto che sarebbe rifluito nei Gesta Marcellini. In questo caso non si trattava, come nel caso di Simmaco, di giudicare di un papa che era accusato di malversazione e soprattutto di stupro. Qui si trattava di qualcosa di ben più grave. Si trattava di giudicare di un papa che sarebbe stato accusato di idolatria. Voi capite che dalla conclusione di questo pseudo processo, al tempo di Simmaco e poi successivamente nella tradizione canonistica, sarebbe potuto discendere una conseguenza di grande momento. Se infatti il sinodo lo condannava in quanto eretico, il che dimostrava che c'era perlomeno una deroga alla ingiudicabilità del Papa. Bene, nei Gesta Marcellini è fatto tutto il racconto. Il sinodo dichiara che è incompetente a dare un giudizio e rimette al Papa ogni decisione. Il Papa prima nega di essere stato idolatra, poi però nessuno gli crede e alla fine dice sì, io confesso, ho sacrificato. Come si conclude tutto questo? Si conclude con questa dichiarazione nei Gesta Marcellini: iuste ore suo condemnatus est et ore suo anathema suscepit, quoniam ore suo condemnatus est. Nemo enim unquam judicavit pontificem, ne presus sacerdotem suum, quoniam prima sedes non judicabitur a quoquam. Vede che poi tornano certe cose. Beh, ma mi direte, e allora? I Gesta Marcellini sono stati fabbricati per dare a Simmaco un aiuto. Ma qui si vede che un papa è stato condannato, sì. Ma è stato condannato giustamente. Ma non perché sia stato condannato giustamente dal sinodo, ma perché ha confessato, è lui che si è condannato. Questa autocondanna salva il principio che prima sede, eccetera, e che ipse, costitutum silvestri, anemi giudicati. Evidentemente, nello scopo di Simmaco e dei simmachiani, questa falsificazione faceva gioco. Simmaco non ha commesso queste cose, poi Simmaco non si è accusato. Non si è giudicato. Come potete voi pretendere di deporlo? Ma se nemmeno Marcellino, per una cosa molto più grave, posto che sia vero quello che dite voi di Simmaco, è evidente. Badate che questa dei Gesta Marcellini è un tipo di difesa che, diciamolo pure francamente, a Gregorio VII avrebbe fatto ben più gioco. Voi infatti sapete che da parte enriciana si accusava Gregorio VII di essere andato vicino all'idolatria, aver violato la tradizione canonica. E voi sapete anche che proprio in questi anni, sia da parte gregoriana sia da parte antigregoriana, e lo vedremo nel pomeriggio, si discute molto se ci sia differenza tra scisma ed eresia. Ora è chiaro che per gli erriciani, se proprio eretico non poteva essere definito Gregorio VII, perlomeno scismatico sì, perché aveva appunto lacerato la Chiesa dal loro punto di vista, si intende. Allora, come mai Gregorio VII non ha pensato ai gesta Marcellini? Ecco, devo dirvi che io non so se non ci abbia pensato, soprattutto in presenza di due circostanze. Nel Dictatus Pape i gesta Marcellini non sono ricordati, ma se prendete, se avete ancora pazienza, se prendete gli altri due Dictatus, cioè quello di Avranches e quello di Pistoia, quello edito da Mordek, voi troverete una affermazione molto significativa. Adesso dirò dove. Ecco, la proposizione 7 a pagina 127. A nemine papa iudicari potest, e sin qui niente di strano, è il constitutum silvestri, etiam si fidem negaverit, ut de Marcellino constat. Ecco che allora nei Dictatus Pape, mi direte, ma questo non è nel registro Vaticano II? Sì, ma nonostante gli sforzi di tutti, che cosa sia il registro Vaticano II, noi non lo sappiamo ancora. Se è veramente un registro originale, se è invece una specie di libro bianco messo insieme proprio con scopi difensivi dai fautori di Gregorio VII. E poiché i Dictatus Pape pare che continuino a proliferare, ne conoscevamo due, adesso Mordek ha trovato il terzo, nessuno esclude che un giorno possa venirne un altro, noi dobbiamo forse cambiare un po' di ottica nei riguardi di questi testi e immaginare non tanto che siano gli indici di una collezione canonica che magari si è perduta, ma che siano dei punti da ricoprire con la ricerca di un diritto positivo per costruire intorno al Papa una vera e propria ecclesiologia personale, che nell'Alto Medioevo non c'era mai stata. Se le cose stanno in questo modo, allora noi non possiamo dire che a Marcellino in ambiente gregoriano nessuno aveva pensato. Prima considerazione. Seconda considerazione. Io stesso, qualche tempo fa, ho giudicato questo brano, questa proposizione numero 7, come esagerazione, come eccesso, no, di filo gregorianesimo, che portava addirittura ad affermare una bestemmia, no? Perché come è possibile che nessuno possa essere giudicato anche se nega una verità di fede? Come vedremo, questo è un oggetto di discussione da parte dei primi commentatori di Graziano. Ma restando per ora a noi, io credo che si possa dare una interpretazione più liquida, meno drammatica, di un'affermazione così risentita. Etiam si fidem negaverit, proprio perché c'è riferimento ai gesta Marcellini. Cioè, se avesse detto a nemine papa iudicari potest, etiam si fidem negaverit e basta, allora diventava avant la lettre, cioè prima dei decretisti, un grosso caso. Ma ut de Marcellino constat, e che cosa constat de Marcellino? De Marcellino constat che Marcellino si è condannato da solo, Quindi non è che il Papa possa liberamente negare la fede. Quello che importa ancora una volta è che nessuno possa giudicarlo se non se stesso. Perché così è avvenuto di Marcellino. Lo scopo, cioè, del falsificatore simmachiano, che voleva dimostrare che non poteva esserci un collegio giudicante del Papa, nemmeno in casi di eresia, è raggiunto. È raggiunto non perché egli non sia stato poi condannato, ma si è dovuto condannare. In altre parole, che cosa si propone questa proposizione settima? Si propone questo scopo, in maniera, diciamo, molto più completa. Anche perché propone una via di uscita, ricordando i gesti Marcellini. Nessuno, nemmeno in caso di eresia, può giudicare il... può giudicare? Mi permetto signora di insistere molto su queste differenze. Anenne Papa giudicari, mai noi troviamo nella... in questi testi l'uso di un verbo al posto di un altro. Non è a nomine Papa condannare ipotesi, ma giudicare, cioè una frase precedente. E infatti il Papa non può essere giudicato da nessuno, anche in caso di eresia, perché l'unico a giudicarlo è lui stesso. L'unico che possa giudicare il Papa è il Papa stesso. Ma allora esiste una possibilità di uscire da questa impasse? Cioè, mai allora il Papa potrà essere messo sotto accusa? Sì, e questa via di uscita non è una mia immaginazione, perché questa via di uscita, cioè la presa di iniziativa di costituire un collegio giudicante, è affidata al Papa anche in uno degli scritti di uno dei più accesi sostenitori di Gregorio VII, intendo dire Bernardo di Costanza. E io mi fermerei a questo punto, perché con Bernardo passiamo immediatamente al frammento A, e dal frammento A andiamo a Graziano e i decreti. Se vuoi, io se posso continuare, ma insomma sono le cose. Hai fatto tutte le parti stamattina, e questo non lo dico. Ci ho fatto anche la parte del diavolo, l'avvocato del diavolo. No, se invece questo non è, allora abbiamo anche più tempo. Insomma, in qualche modo è l'unico primo che più tu che abbia un po' di velocità. E il problema non è per me, dipende solo dalla pazienza degli ascoltatori. Dunque, se siamo riusciti a indicare una linea, ebbene questa linea arriva a questa conclusione, la presenza di una affermazione così perentoria nella proposizione settima del Dictatus di Pistoia e di Avranches, circa la impossibilità di giudicare il Papa anche nel caso in cui abbia negato un articolo di fede, come dimostra il caso di Marcellino. Beh, dico, se a questo siamo arrivati anche a spiegare che sicut constat de Marcellino va inteso non in senso, come dire, di eccesso di interpretazione della immunità, ma come retta interpretazione del riferimento ai gesti Marcellini, cui il Papa è condannato ma è condannato solo a se stesso. Se siamo arrivati a questo, dicevo in chiusura della prima parte, siamo arrivati anche a individuare la possibilità di avvio di una procedura di accusa nei riguardi del Papa. Perché in sostanza, come ormai credo di poter dire, tenendo presente quelle cose che, sia pure rapidamente, dovremo dire questo pomeriggio, il vero problema è la messa in moto di un meccanismo procedurale per porre il Papa in stato di accusa. Bene, vi dicevo, questa interpretazione della proposizione 7 dei Dictatus di Avranches e di Pistoia consente di riallacciarci a una interpretazione che di questa casistica è coesa agli stessi Dictatus e alla stessa contestualità gregoriana. Facevo il nome di Bernoldo di Costanza. È inutile che io vi dica chi sia Bernoldo. Bernoldo di Costanza è un personaggio ancora tutto da scoprire dal punto di vista della specificità professionale. È un canonista ignorato per molti aspetti. Solo Johanna Autenrit ha cominciato a studiarlo, ma probabilmente c'è lavoro per tutti. Per quello che ci riguarda, io vorrei osservare questo. Bernardo di Costanza scriveva intorno al 1076 a Bernardo, i testi si trovano nei Libelli come al solito. Richiamo la vostra attenzione sul fatto che il 1076, cioè uno degli anni del Dictatus Patris, e osservava a proposito delle accuse che a Worms erano state scagliate contro Gregorio VII, nempe si culpabilis esset, cioè Gregorio VII, peregrinorum tamen episcoporum iudicio, iusta canones, nec discutiendus esset, ne dum temere deponendus, sed pocius in romana sinodo audiendus. Quindi lo stesso Bernoldo avvertiva, proprio con la sensibilità canonistica che gli era propria, che occorreva ricarsi a un concilio, ma tenuto a Roma. E tenuto a Roma non è senza motivo, tenuto a Roma vuol dire convocato dal Papa. Bernoldo, d'altra parte, in queste parole che abbiamo citato, indicava una procedura canonica, iuxta canones, e tra i canoni c'erano i gesta Marcellini. Purtroppo noi possediamo oggi delle edizioni dei Libelli che dal punto di vista testuale non credo, anche se rifatte, ci darebbero molte novità. Non credo infatti che nella recente edizione del Libellus de Investitura Episcoporum, che è apparsa nel Deutsche Kirche, dal punto di vista del testo siano mutate molte cose. Quello che invece è mutato è l'apparato esegetico. Ecco, nessuno nella edizione dei Libelli si è preoccupato di dire a che cosa si riferisse Bernoldo o a che cosa potesse riferirsi Bernoldo quando diceva iuxta canones. Bene, se quanto abbiamo detto ha una consistenza, iuxta canones qui indubbiamente si riferisce alla parte finale o all'interpretazione globale dei gesta Marcellini, perché sono solo i gesta Marcellini sino ad ora, come fonte esplicitamente citata, che consentono di prefigurare un concilio tenuto peraltro a Roma, quindi per convocazione di chi a Roma poteva e doveva convocare un concilio, cioè il Papa. Sono solo i gesti macedoni che prevedono questa procedura. Il Papa convoca un concilio, chiede perché mi mettete sotto accusa, sentiamo, vediamo. Vorrei immediatamente precisare una cosa. Bernoldo, per lo più, è stato ritenuto un canonista, ed è tuttora ritenuto, un canonista disponibile, cioè un uomo pieno di buon senso, di saggezza. D'altra parte, Bernoldo appartiene a un gruppo molto, molto equilibrato. Non ci sono punte decisamente polemiche nei riguardi degli enriciani. Bernoldo, in altre parole, potrebbe, anche attraverso questo testo, apparire ancora una volta come, non dico un possibilista, ma come un uomo che, forte della sua esperienza e soprattutto della sua interpretazione dei canoni, riesce a mettersi un po' al di sopra della mischia. Ecco, questo è vero, ma è vero solo in apparenza. Perché quando Bernoldo dice perché prima di pronunziare la vostra condanna a Worms non avete chiesto al Papa, cioè a Gregorio VII, se poteva convocare un concilio a Roma in modo che vi avrebbe ascoltati, Bernoldo va anche molto più avanti, dice se voi foste riusciti a convincerlo, egli si sarebbe certamente di buon grado reso disponibile per rinunziare al trono pontificio. Ma Bernoldo scrive questo solo post eventum, non solo, ma solo perché può obiettare immediatamente: voi questo non l'avete fatto, quindi vi siete automaticamente esclusi dalla procedura canonica, quindi il Papa non è più tenuto a convocare un concilio per sentire quello che voleva. Ecco, io vi richiamo molto, mi permetto di richiamarvi molto su questi aspetti che possono apparire solo delle sottigliezze, ma non sono delle sottigliezze. La verità non la possiede nessuno, la verità è nel rispetto più stretto e formale di una procedura. Quando si riesce a dimostrare che una procedura non è stata seguita solo perché la parte avversa a sua volta, ma prima, non aveva seguito la procedura, è segno che si rinuncia a una discussione sui contenuti, ma si fa affidamento solo alla procedura. Badate che con Bernoldo non siamo che ai tre quarti del secolo XI. Dico questo perché di solito, da Stickler a Tierney a Kuttner, per fare nomi di grandi studiosi di diritto canonico, di solito, vi dicevo, si è trascurato il contributo di elaborazione concettuale e intellettuale che la libellistica gregoriana ha dato al progresso della scienza canonistica. Per tutti gli studiosi, grandissimi studiosi, che io ho ricordato, ogni discorso si inizia da Graziano o dopo Graziano. Ebbene, quando noi andiamo a verificare le cose molto da vicino, come io ho cercato di proporvi, ci accorgiamo che dubbi, perplessità, difficoltà erano nati perlomeno 60 o 70 anni prima di Graziano. Graziano ha avuto questo enorme e indiscutibile merito di avere in qualche modo offerto un materiale tanto più problematico quanto più eterogeneo, ma le risposte che ai problemi posti prima ha dato Graziano sono molto molto ridotte. Di questo ci accorgeremo subito. Quindi questo per quanto riguarda Bernoulli. Dunque, un caso, quello prospettato da Bernoldo, che non era stato previsto a Loris, mentre sulla base di una lettera di Papa Marcellini, gesta Marcellini, e sulla base di quanto era avvenuto anche per Simmaco, sarebbe stato assolutamente necessario che un concilio riunito allo stesso Papa, posto sotto accusa, decidesse sul da farsi. E ciò non perché al Papa, in quanto tale, si dovessero dei riguardi, si in aliqua eresi fuerit publicatus, ma perché produbis rebus non doveva essere inascoltato, cioè senza essere ascoltato, deposto. Quindi io vorrei sottolineare questo aspetto. Per un verso si concede la possibilità della messa in moto di una procedura, il concilio. Ma solo, ed è questo importante, per dimostrare che questa possibilità è già stata superata, è stata evitata da quanto a Worms era stato fatto. Quindi questa possibilità, nel momento stesso in cui la si intravede come mera possibilità giuridica, richiamo la vostra attenzione su questo, de jure questo era possibile, de facto no, e non per colpa dei Gregoriani. Bernoldo, in effetti, scrive che nella sinodo romana di Simmaco le accuse contro il Papa erano state lasciate cadere, riservandosi al giudizio divino il compito di esaminare l'innocenza o la colpevolezza di Simmaco. Mi permetto di ricordarvi la diversa estensione della citazione di Ennodio Simmaco in Gregorio VII e in Anselmo di Lucca, riservato al giudizio di Dio. Si tratta di una trasposizione quasi letterale della parte finale di quella pièce canonistica che abbiamo già trovato e discusso. Ingiudicabilità a qual fine, però, osserva se stesso Bernoldo, perché non deve essere giudicato? Ne coq dicimus quasi quelibet nefanda romano pontifici impune licere credamus, quasi, non è ipse, sit impetendus sin aliqua eresi fuerit publicatus. In qual modo però potesse verificarsi poi la pubblica eresia del Papa o la sua stessa cattiva condotta o la sua illegittimità, non sembra che possa chiaramente evincersi. Certo, c'era il concilio. Ma il concilio doveva essere convocato dal Papa e spettava poi al Papa decidere se aderire o meno alle accuse. In sostanza si ricadeva, sia pure con una maggiore sottigliezza e con qualche passo in più nella linea procedurale, nella solita aporia che il giudicando era anche giudice. Come Bernoldo poteva immaginare che si sarebbero svolte le cose ove l'accusa di eresia, ecco, l'accusa di eresia, perché Bernoldo è molto abile nel passare da una motivazione specifica. Certo, noi non diciamo che il Papa possa permettersi tutto, perché se è sorpreso in eresia, Però da questa motivazione specifica egli trapassa anche alle accuse di carattere più generale. Come si sarebbero svolte le cose se l'accusa di eresia e non quella di illegittimità delle elezioni o di cattivi costumi, che erano le accuse lanciate poi più frequentemente, almeno in questa fase della polemica, fosse stata lanciata contro il pontefice? Cioè, supponiamo che qualcuno accusasse, rispettando il punto di vista gregoriano, accusasse il pontefice di eresia. Cosa sarebbe successo? Bernoldo intanto è molto sfumato nella terminologia. L'accusa non è mai detta accusa, ma si dice quasi non et ipse sit impetendus, che è la stessa cosa e non è la stessa cosa. E si inaliqua eresi fuerit publicatus. Badate che il publicatus non è un escamotage. Publicatus ha un significato preciso. Publicatus è molto di più che misia fide depreegatur, perché la depreensio o la repreensio può essere anche un fatto privato, mentre una pubblica accusa di eresia implica tutta una serie di notorietà che nella repreensio può anche non essere necessaria. Bene, c'è da osservare che in questo atteggiamento si mantiene una dose di quello che gli inglesi chiamerebbero understatement, no? Cioè, quando si parla di certe cose, Bernoldo utilizza un linguaggio leggermente più sofisticato, non dirò non canonico, perché impetendus, publicatus, publicari, si ritrovano certamente nella libellistica e anche nella canonistica. Apro un inciso, per me non c'è sostanziale differenza in questo periodo tra libellistica e canonistica. Direi che la secchezza delle collezioni canoniche trova poi una sua complementarità ovvia proprio nella libellistica. Di questo magari non tutti sono convinti. Quindi c'è questo understatement, laddove ci si vuole difendere dall'eventuale accusa di rifiuto di colpevolezza a tutti i costi. Ma si era parlato di nefanda, che certamente nessuno pensava di consentire al pontefice, perché i vari nefanda si riducono nella fattispecie giuridica, nefanda è generico. Però quando poi esaminiamo il caso specifico in cui il pontefice potrebbe essere messo sotto accusa, ci riduciamo a un caso solo, cioè quello dell'eresia. In secondo luogo, quasi a dilatazione delle possibilità, nel concilio le cose potevano anche andare secondo un loro verso autonomo, oggettivo. Dum taxat canonice discuterent. Ecco che ricadiamo nella ambiguità, perché d'un testo canonice discute, cioè purché le accuse formulate contro il Papa in un eventuale concilio, eventualmente promosso dal Papa, al quale eventualmente avessero partecipato quelli che a Worms si erano invece precipitati a deporre Gregorio VII, re. In questo caso, quindi molto circoscritto, molto eccezionale se volete, in questo caso gli accusatori potevano certamente formulare le loro accuse dum taxat canonice discutere. Ma cosa vuol dire? Purché la loro procedura fosse stata canonica. Ma qual era la procedura? La procedura era la dichiarazione di ammissibilità o meno al giudizio, l'ammissibilità o meno alla testimonianza, che doveva essere concessa in un concilio romano solo da una persona, cioè dal Papa. E allora con questo non facevamo nessun progresso. Le cose restavano esattamente al punto di partenza. torna cioè a parlare di disponibilità del Papa ad ascoltare un dibattimento in concilio, un concilio da lui stesso convocato, e che doveva discutere le accuse sulla sua condotta morale o sulla regolarità della sua elezione, con la promessa di un'autodeposizione ove fosse stato provato quid neo dignum deposition. Già. Ma il fatto è proprio questo, che dum taxat canonice implicava tutta la tradizione del libellus pro sinodo di Simmaco e dei gesta Marcellini, perché in Bernoldo questi due filoni che noi abbiamo individuato si compongono. Due filoni che lasciavano comunque arbitro il Papa. Per Simmaco non c'è dubbio, è santo. Per i gesta Marcellini, se è eretico, deve essere condannato, ma è lui che deve condannarsi, non il concilio. Allora vi chiedo, cioè non ve lo chiedo io, e non siete voi che mi dovete rispondere, ma oggettivamente lo chiedeva Bernoldo, lo lasciava insoluto, e lasciare una cosa insoluto nel diritto canonico significa porre una domanda, poneva questa domanda a tutti quelli che sarebbero venuti dopo, come vedremo. Allora, dicevo, era sempre arbitro il Papa, che aveva accettato di ascoltare le accuse mosse contro di lui, di autodeporsi solo nel caso di eresia comprovata. Mai, ripeto, mai, nella linea canonistica su cui insisteva tanto Bernoldo, in caso di accuse, sia pure comprovate, in fatto di condotta. La pièce dei decreti Simmachi, di cui abbiamo parlato in precedenza, e che Bernoldo cercava di addurre insieme a Chianogesta Marcellini, escludeva ogni giudizio sul Papa da parte degli uomini. Quanto alla clausola Nisia Fide, non faceva parola. Badate, non ne faceva parola. E perciò, solo perciò, Bernoldo coniugava il vero Simmaco con i falsi simmachiani. Di fronte alla sottigliezza, ma anche all'ambiguità di Bernoldo, la stringatezza esplicita del Dictatus di Avranches, capitolo VII, e di quello di Pistoia, capitolo VII, è in qualche modo molto più corretta. L'importante per quelle proposizioni era coprire il Papa comunque da ogni lato. Etiam si fidem negaverit. Ed era corretto per quale motivo? Non per un abuso di potere, perché il Papa poteva deporre se stesso, ma solo il Papa. Quindi si salvava la procedura, ma si salvava anche quello che si voleva salvare, cioè la ingiudicabilità del Papa. Ecco perché, pur avendo riconosciuto e riconoscendo sempre la sua qualità esegetica superiore, non sopravvaluterei la posizione di Bernoldo. Ma gli sforzi combinatori sono sempre in materia di diritto canonico molto istruttivi per lo storico, e questo è appunto il caso che abbiamo lasciato da parte del frammento A. Non credo che sia il caso di rifare la storia di questa pièce. Tutti quanti la conoscono. Ricorderò dei nomi: Schramm, intanto perché ha pubblicato il testo, Ullmann, Michel, e tra gli italiani il collega e amico Alberigo, io stesso, e quanto alle attribuzioni, da ultimo, lo Hesch. Quello che ci importa, perché questo è quanto ci preme in questa sede, è leggere il frammento A dopo aver esaminato la presa di coscienza dei problemi tecnici, cioè tecnico-giuridici e propositivi, degli strumenti tecnici a disposizione per la soluzione di quei problemi tecnici. Cioè, in altre parole, esiste un problema tecnico che è quello dell'avvio della procedura di accusa. Quali sono gli strumenti tecnici a disposizione dei canonisti per questo avvio? Con l'analisi di questo testo, d'altra parte, noi ci portiamo immediatamente verso la fine della nostra esposizione, perché esso è tra i non molti delle pièce libellistiche che siano pervenute a Graziano, non solo, ma che da Graziano in poi siano state oggetto, come vedrete nella nella serie di brani che io ho fotocopiato traendoli da un testo a stampa, perché si tratta di edizioni, non si tratta di testi editi, ma di testi trascritti da manoscritti. Dicevo, questa del frammento A è una vera e propria questione che si pone ai decreti. La grazia mi pone. Dunque, che cosa dice il frammento A? Il frammento A si trova nella collezione di De Usvetit, a pagina 177, precisamente il libro primo, capitolo 306. Exercis Sancti Bonifaci Martis et Archiepiscopi Legati Sante Romane Ecclesie. Frammento A occupa tutto questo capitolo, è stato chiamato frammento A perché lo Schramm ne ha individuate due parti. Che cosa si dice? Santa Romana et Apostolica Ecclesia privilegio specialis autoritatis divinitus et humanitus caput omnium ecclesiarum postscriptum Iesum et secta secundum antiscitis velectoris sui qualitatem et valitudinem afficit tutius christianitatis membra utilius incolumitati sua respondeant incolumitate et con gaudeant et nihilominus eius languoribus suo languore consentiant. Et sicut eius gloria iuxta apostolum con glorificantur, sic eius deectione deiciuntur. Et illum profeticum in eo precipo e compleri deprendatus, omne caput languidum et omne cor meris, a planta pedis usque adversicem, non est in eo sanza. Così si inizia con richiami scritturistici molto significativi, perché pongono il problema della santità, della irreprensibilità del Papa in termini chiaramente scatologici. La cristianità non rispetto alla fede di Roma, e questa è appunto la differenza, ma rispetto alla persona singola del Papa. Perché? Perché Santa Romana et Apostolica Ecclesia, secundum antistitis vel rectoris sui qualitatem et valitudinem afficit totius christianitatis membra. La stessa Chiesa di Roma, che nella tradizione era il termine ultimo, l'istanza massima, ammette in questa prospettiva una istanza superiore, cioè la stessa Chiesa di Roma si atteggia, come diremmo noi oggi, a seconda della natura, della qualità, come dice questo frammento, del proprio capo, del proprio presule, cioè del Papa. Quindi torniamo con il frammento A ad avere un discorso sulla persona. Questo è molto importante. Cioè, sulla persona del Papa, chiaramente questo testo risente di una disputa sulla singola persona. Vorrei dire che una conclusione da tutto quello che abbiamo detto anche stamane possiamo subito trarre. Il dibattito su Gregorio VII ha dato come frutto, come reazione da parte di Gregorio VII, la trasposizione di piani. Non è più solo il piano della Chiesa di Roma, perché il piano della Chiesa di Roma da solo non esiste senza un automatico riferimento a quello della persona del Papa. D'altra parte, la persona del Papa non può non rimandare alla Chiesa di Roma la saldatura, l'anello di congiunzione è trovato, ogni attacco a uno qualsiasi dei membri della Chiesa di Roma in qualsiasi momento della storia della Chiesa di Roma è un attacco alla Chiesa di Roma. Ora, se c'è un punto sul quale tutti, enriciani e gregoriani, sono d'accordo, è che non si discute il primato di magistero della Chiesa di Roma. Ma se la Chiesa di Roma a sua volta, come abbiamo letto poco fa, acquista una connotazione particolare a seconda della qualitas del proprio presule, il discorso chiaramente non è più sulla Chiesa di Roma, ma sulla persona del Papa. Se vogliamo così interpretare in termini di politica culturale l'atteggiamento di Gregorio VII, Gregorio VII è riuscito a capovolgere una situazione oggettivamente sfavorevole, perché ha saldato logicamente e giuridicamente la propria causa a quella della Chiesa di Roma. L'argomento più forte che avevano i suoi avversari era quello, ed è sempre stato quello, di accusarlo di aver contravvenuto alla stessa posizione della Chiesa e alla stessa tradizione della Chiesa romana. Bene, questo argomento viene annullato. No, perché la Chiesa di Roma non è qualche cosa di diverso dalla qualità del proprio presule. Questo è un punto da tenere ben presente per le conseguenze che ha. Dicevo che gli sforzi combinatori in materia di storia del diritto canonico sono sempre molto utili, anche perché noi possiamo leggere questo testo dopo aver preso coscienza di una serie di punti. L'analisi di questo testo, d'altro canto, ci porta immediatamente ad alcune considerazioni. Il frammento A, come è stato accolto? Cioè, il frammento A, che è quello di cui ho letto una parte, come è utilizzato dai contemporanei e come è stato interpretato dagli storici. Dopo la dichiarazione, dopo il preambolo che io vi ho letto, il frammento A prosegue: tanta reverentia apicem prefate apostolice sedis omnes suspiciunt, ut non nullam sanctorum canum disciplinam et antiquam christiane religionis institutionem magis abore precessoris eius quam sacris paginis et paternis traditionibus expectant. Si conferma quello che vi ho detto poco fa: la Chiesa di Roma vale perché? Ma perché tutti i fedeli, più addirittura di quanto recepiscono dalla Sacra Scrittura, e non ho bisogno di richiamare la vostra attenzione sulla enorme gravità di questa dichiarazione, guardano alle decisioni quindi assolutamente svincolate dalla tradizione del Papa, perché il prefetto sedis è il Papa. Rilevo che questo testo è entrato a far parte di una collezione canonica gregoriana come quella del cardinale De Ustini. Illius Velle, Illius nolle tantum explorant ut ad eius arbitrium suam conversationem, et ipsi remittant aut intendant. La volontà del Papa diventa norma di conversatio, cioè di condotta morale. Quodsi ut sum opere sibi et omnibus expedit, zelo domus Dei sine intermissione tabescens, fidelis dispensato et prudens existens, Deo et hominibus opere et sermone irreprensibile sese conservare tuduerit, ut vere fatia, universum pene mundum secum attonitum et sollicitum post Deum currere facit. Se il Papa si mostra degno nella vita, nel comportamento, nella fede, uniforma di questa correttezza tutta la cristianità. Sì, vero! E nella nota alla Graziana, nella nota alla sì, voi trovate tutto il testo nella nota alla Distinzio 40, capitolo 6. Ecco, adesso invece abbiamo la pièce che va a finire poi in Graziano. Sì, vero, sue fraterne salutis negligens deprehenditur inutilis, et remissus in operibus suis, et in superabono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nil omnibus innumerabiles populus catervatim secum ducit, primo mancipio gehenne, cum ipso plagis multis in eternum vapulaturus. Allora, se la condotta del Papa è tale da informare la cristianità in maniera tale da influenzarla per la salvezza, benissimo. Ma ove la condotta del Papa fosse tale da meritare un biasimo, e un biasimo consistente nella trascuratezza della propria della propria salvezza come di quella altrui, dei fratelli, se il Papa fosse tale da essere inutilis, l'aggettivo non è assolutamente casuale. Inutilis è detto il capo che non risponde al modello di impegno al quale deve rispondere. Inutilis non è detto solo del Papa, anzi, inutilis è detto solitamente del re, del sovrano, dell'imperatore. In questo contesto cronologico, in un contesto cronologico precedente e anche in un contesto cronologico successivo, manca, e io auspicherei veramente che si facesse, uno studio sull'uso di inutili. Secondo me, io lo dissi qualche anno fa in una breve comunicazione all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, inutilis o inutile va posto in correlazione con irritum e con indignum. C'è forse qualche precedente in Gregorio Magno, ma è uno studio tutto da fare. Comunque, inutilis, se il Papa è inutilis, cioè se il Papa si trova nella condizione che solitamente i gregoriani rimproverano all'imperatore o al sovrano o ai vescovi simoniaci, perché inutilis ha un sinonimo nella frase qui dici tantum episcopus cupit, che inutilis e dictus rex dictus episcopus, questo è l'equivalente. Cioè se il Papa arriva a questo livello, che cosa succede? Deve essere posto sotto accusa? Non ancora. Guardiamo le conseguenze, come il re e questo era stato detto nella lettera del Manno di Metz. Ci sono delle singolari coincidenze tra le parole seriatim catervatim, innumerabiles innumerabiles. Non voglio proporre una fonte per il frammento A, mi preme notare una consonanza di termini. Se il Papa è inutilis, tuttavia ricordiamoci che trascinerà con se stesso nella pena eterna, cioè nella damnatio eterna, se è la cristianità. D'altra parte, le colpe del Papa, cuius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia custos ipse judicaturus, anemine est judicandus, nisi forte deprendatus a fide Deus. Ecco, questo è il punto centrale del frammento A. La prima volta che troviamo una applicazione al Papa della clausola nisi a fide. Che cosa è successo dal momento in cui l'attenzione degli studiosi è stata portata su questo punto? Lascio le interpretazioni di Anton Nissen, il quale aveva sbalordito dal testo, aveva collegato Nisi forte a fide deprendato, non al Papa, ma a mortalium nullus. Solo un eretico tra i mortali avrebbe potuto. La cosa fu immediatamente contestata e lo stesso Michel, con l'onestà che gli va riconosciuta, lo riconosce. La clausola in sé è di una ovvietà assoluta per chiunque abbia, non come lettura alla fine della giornata, ma abbia letto le pseudo isidoriane, sa che la clausola si ritrova in ogni pietra spesso. Le pseudo isidoriane sono nate come un manuale di procedura, anzi di non procedura, di accusa nei riguardi dei vescovi. Sono state fatte dai vescovi francesi, lo sappiamo, no? Ma al Papa? Allora siamo arrivati alle conseguenze estreme. Ecco, c'è un caso in cui il Papa, dichiaratamente, in un testo che essendo finito nella collezione di un gregoriano come Deus Dei, e non solo, essendo finito in Graziano, testo di Graziano l'avete tutti, c'è un caso in cui il Papa può essere posto sotto accusa. Insisto, sotto accusa. Perché si dice redarguere. E vi ricordo che anche oggi uno prima è accusato, poi giudicato e poi condannato. Questa non è una distinzione che facciamo noi, è una distinzione che molto prima di noi si faceva nel Medioevo, perché si faceva da sempre, perché il diritto romano l'aveva insegnato. E il diritto romano aveva anche messo in guardia che un accusato non era ancora giudicato e tantomeno condannato. Di questo però molti non si sono ricordati. E da questo testo, che dal solito Anton Michel è stato attribuito a Umberto di Silva Candida, e secondo me non è assolutamente possibile, questo testo è stato inteso come non solo la prova di una possibilità di mettere sotto accusa, ma addirittura come uno spazio lasciato a un corpo giudicante. Io vi chiedo scusa, ma noi siamo abituati a una logica diversa da quella dei decretisti e dei canonisti medievali in genere. Quando noi parliamo di mettere sotto accusa, ci sembra abbastanza ovvio che esista un corpo giudicante, questa messa in stato di accusa. Io non posso accusare un tale se poi non c'è un corpo giudicante, no? Ma per quanto concerne questo punto, la vera difficoltà, una volta assunta l'ipotesi di una messa in stato d'accusa, la vera difficoltà era quella di trovare un corpo giudicante, perché davanti a quale tribunale io accuso il Papa? Questo era il punto. Si è detto, sin dall'undecimo secolo sono i cardinali. Beh, sin dall'undecimo secolo la mia risposta è no. L'ho scritto, lo ripeto, anche se questa è una proposta avanzata da una persona che io stimo e che lusingo mi sia amica. Dal XX forse, ma non come fatto automatico, non perché questo significhi che sin dall'undecimo secolo il governo della Chiesa di Roma sia affidato a un collegio. No, non c'è nessuna collegialità nel secolo undecimo e ove ci fosse, lo dico per absurdum, non potrebbe fondarsi su questo frammento A. Dall'esegesi di questo frammento A, come mostrano i passi che sono raccolti in questo fascicolo, si sarebbe trovato poi forse anche la possibilità che fossero i cardinali. Collega ha studiato questo problema nel periodo finale del XII e iniziale del XIII secolo, ma c'è un secolo intero, per non dire un secolo e mezzo. Ma andiamo avanti. Come è stato inteso questo testo? Questo testo è entrato in Graziano. In Graziano ha ricevuto un titolo. Posso avere un attimo Graziano? Dunque, se leggiamo Distinzio Quadragesima Caput Sextum, il titolo l'avete tutti sotto gli occhi, no? Prego. Dunque, Damp Natur Apostolicus, qui sue fraterne. Ora, il frammento A è stato letto per lo più da Ullmann, da Schramm, prima di Ullmann, dall'amico Alberigo, da molti altri, non come la premessa di un avvio di procedura, ma come un caso di automatismo di condanna. Questo non è assolutamente sostenibile. Primo, perché quella interpretazione nasce dal titulus di Graziano, Damp Natur. Ora io vorrei dirvi che Graziano affronta questo problema in una distinzio in cui discute dei meriti dell'ufficio e non dei meriti della persona, e dice l'ufficio da solo non dà meriti, è la persona, la qualità della persona. Ma vorrei anche dirvi che immediatamente prima del capo sesto c'è il capo quinto, questa è la palese. Ma il capo quinto ha questo titolo, magnitudo peccati vel dignitatis quenque fortite deici. Cioè più alta è la dignità e più grave è la pena, questo è ovvio. E allora io comincio a chiedermi, Damp Natur vuol dire è condannato, ma di quale tipo di condanna si tratta? Di una condanna umana o di un'altra condanna? Se c'è una logica, e Graziano molto logico non è sempre stato, però è stato il più logico, perlomeno fino ai suoi tempi. Se c'è una logica nella successione dei titoli, dopo il capitolo quinto, che ha quel titolo, e ripeto, fino alla noia, i titoli sono la chiave interpretativa dei contenuti canonistici, qual è la dignità più alta di quella del Papa? Nessuna. La caduta da questa dignità corrisponde al massimo della colpa e al massimo della pena. Ora, io chiedo, è più grave la pena degli uomini di un tribunale umano o è più grave la pena del tribunale di Dio? Tenuto conto del fatto che tutto sommato Simmaco, cioè il Nodio, aveva detto che il giudizio del Papa è lasciato a Dio. Il giudizio del Papa è lasciato a Dio. Allora, se il giudizio del Papa è lasciato a Dio, se il Papa è la più alta dignità, se più alta è la dignità, più grave la colpa e più grave la pena, indubbiamente la pena più grave non è quella del giudizio umano, ma del giudizio divino. Ma questi sono, come direbbero i nostri amici filosofi, delle pure speculazioni. E invece no, perché poi nel brano del frammento A che Graziano riporta si parla di una catastrofe escatologica in virtù della quale il Papa, che sia trascurato della propria e dell'altrui salvezza, che sia inutilis, come abbiamo visto, trascina con sé nel baratro dell'inferno tutta la cristianità. Perché? Perché un Papa che sia come è descritto è il modello che si pone a tutta la cristianità. Se il modello è cattivo, la cristianità segue un modello cattivo, cade il modello, cade la cristianità. Non è un'argomentazione paradossale. Nella epistola Hermano di Metz, ripeto ancora una volta, erano state dette le stesse cose per i sovrani, per i principi temporali. Solo che nell'epistola Hermano di Metz il paradosso era niente santi da una parte, tutti santi dall'altra. Qui c'è il paradosso del paradosso. E se non fosse vero che sono tutti santi da un'altra parte, badate che le conseguenze sarebbero ancora più gravi di quelle che capiterebbero se a capo di tutta la cristianità non fosse il Papa ma fosse l'imperatore. So, è stato sufficientemente chiaro? Ma allora Damnatus del titulus di Graziano come va inteso? Non come condanna, voglio dire, come va inteso iuxta Grazianum, non iuxta decretistas, ma a stare all'interno di Graziano, come va inteso? Va inteso come condanna alla pena eterna, ma è una catastrofe cosmica. Questa è una prima cosa che mi preme osservare. Chi ha inteso il frammento A come concreta, proceduralmente, positivamente valida procedura, no? Per trovare una breccia nella difesa che abbiamo illustrato stamane, che si pone intorno al Papa, ha sbagliato, si è fatto fuorviare da questo titolo, Damnatur. Non ha molto rilievo, ma io devo confessarvi una impressione. Ricordate questa Marcellini, la fine? Juste ore tuo condemnatus. La damnatio? Sì, si riscontra, ma è meno frequente. La condanna di un tribunale, no, la condanna, come la intendiamo noi, e la condemnatio, qui c'è una damnatio. Anche qui, se avessimo studi semantici, no? Potremmo forse giungere a qualche conclusione o escludere queste ambiguità, ma non le abbiamo. Però è importante notare queste leggere, forse non leggere, differenze. Quindi su questo va bene. Ma c'è un'altra osservazione. Si è detto, in caso di eresia, il Papa può essere giudicato. Non da adesso, ma dal 1972, in una nota piuttosto lunga di un mio articolo apparso come relazione di una settimana della Mendola, io ho proposto una diversa lettura. Guardiamo il testo del frammento A e guardiamolo, perché questa è una parte che c'è in Graziano, come è in Graziano. Ius, vedete, siamo a metà del capo sesto, no? Ius culpas, cioè le colpe di costui, che è il pontefice poi. Istit, qui, sulla terra, redarguere presumit mortalium nullus, nessun mortale pensa, presume, osa, ardisce, come volete, contestare, redarguere questo. Poiché egli, cioè il Papa, è per giudicare tutti, ma da nessuno deve essere giudicato, virgola, a meno che non sia sorpreso come deviante dalla fede. Ora, amici miei, Nisi de Prendatura Fide Deus è stato collegato a Anemine Judicandus. Io affermo che Nisi de Prendatura Fide Deus vada collegato a Nullus Mortalium Presumit Redarguere Culpas Cuius. Vi direte, e che differenza c'è? C'è una differenza. Perché se noi lo colleghiamo a Nemine Judicandus, vuol dire che un processo è avviato per un giudizio in caso di eresia. E avviare un processo significa veramente, significherebbe veramente avere trovato una fessura nella difesa. Ma se noi colleghiamo Nisi de Prendatura Fide Deus a redarguere, le cose cambiano, perché redarguere è accusare, contestare, non avviare una procedura di giudizio. Ricordiamoci che secondo tutto il diritto canonico alto medievale, la difficoltà non era quella di iniziare un giudizio, ma era quella di promuovere un'accusa. Nessuno poteva accusare un vescovo che avesse avuto, come aveva in moltissimi casi, una concubina. Nessuno poteva accusare un vescovo se avesse disposto male, come in moltissimi casi disponeva male, del tesoro dei poveri, cioè di una parte dei beni della Chiesa, che canonicamente spettava ai poveri, se era inferiore al vescovo, perché tutte le collezioni canoniche lo dicono, fino a metà del secolo XI. In questi casi, magis est tolerandus, e bisogna pregare perché non continui in questo errore. Accusare, non si parla di porre sotto, cioè non si parla di mandare in giudizio, si parla della ricevibilità dell'accusa, di un atto che proceduralmente precedente il giudizio. Ecco perché il frammento A non può fare riferimento, secondo il mio punto di vista, a un corpo giudicante, perché qui si tratta di discutere se sia addirittura possibile formulare l'accusa. Ma se le cose stanno così, a che cosa si riduce allora l'efficacia del frammento A? Solo a ipotizzare un caso di messa in accusa. Una ipotesi che chiaramente ha il significato di una ipotesi al limite, perché se si arriva a questo, tutta la cristianità è perduta. Tanto è vero, come termina il frammento A? Procurius, perpetuo statu, cioè per la buona conversazio del Papa, universitas fidelium, tanto instantius orat, cioè prega tanto più intensamente, quanto suam salutem, della propria salvezza, post deum, cioè dopo quella che è la provvidenza di Dio, ex illius incolumitate, e qui si parla di incolumità fisica e morale, animad vertunt propensius pecus, salvo egli divine omnipotenti misterio ut divinum est loco ab ipsa secundo illud beati Job non incongre aptari sante romani ecclesi. E poi nec in merito cum ipsa specialis in petri celi terrete, ma tutto questo ha minore importanza. Il frammento A a quale scopo risponde? Esattamente, a mio modo di vedere, ai due scopi che abbiamo intravisto nella lettera del Mani di Me. Per un verso, ad aumentare la tutela del Papa. Mi direte, però è l'unico che faccia una eccezione, è l'unico che proponga l'eccezione miseri. È vero, ma non dimentichiamoci che Deus dedit, forse in senso più formale di Anselmo, è un canonista. E Deus dedit componeva la sua collezione dopo essere stato testimone delle accuse che erano state formulate nei riguardi di Gregorio VII. Quindi queste accuse comprendevano anche l'eresia. Non ci stupisce che abbia previsto questo. Mi direte, ma allora è stato De Uzzeli a comporre il frammento A? Io questo non lo so. Non credo che per molto tempo lo sapremo mai. Nessuno, ad esempio, di quelli che si sono occupati di questo problema ha redatto una statistica dei testi tratti da Bonifazio presenti nelle collezioni canoniche. Io credo che questa statistica non darebbe dei grandi numeri. Non voglio dire che si tratti di una falsificazione, ma, mio Dio, egli si conosceva la lettera a Ermanno di Metz. Certi parallelismi anche terminologici li abbiamo notati, e una certa coerenza mi pare abbastanza evidente. D'altra parte, questo frammento A componeva due filoni, quello di Simmaco e quello di Gesta Marcellini. Costituiva, in altre parole, un solido fondamento per la proposizione 23. Può essere che non sia stato così, ma allora chiederei per quale motivo dei non molti pezzi di questa libellistica questo testo, sia pure mutilato della parte iniziale e finale, sia entrato in Graziano. Con un titolo certamente molto sviante rispetto alla finalità di Deus Delicto. Ma questo è un altro discorso. Questo è quello che concerne il frammento A. Il frammento A aveva risolto tutti i problemi? No. Il frammento A, nel chiudere il filone di una tradizione, ne apriva un'altra. Perché? Perché il frammento A era il primo, come io ho detto all'inizio, che lasciava intravedere una possibilità di accusa. Anche se la mia interpretazione, come ho la presunzione di credere, è vera, la mia interpretazione non dice niente circa l'ulteriore procedura. La mia interpretazione limita la portata del titolo di Graziano, ma non nega che rimanga un problema di messa in giudizio dopo una eventuale messa in stato di accusa. Il frammento A e la sua ripresa da parte di Graziano lasciano un problema. Il Papa può essere messo in stato d'accusa. Da chi? Non è detto. Per errori di fede, ma che cos'è una eresia? E chi dice che quella è un'eresia? E dato e non concesso che tutto questo sia vero, chi è che lo giudica? Questi sono i principali problemi che il frammento A lascia dopo Graziano, perché l'evidenza massima si è avuta nel recepimento di Graziano, quindi da Deus Delicto a Graziano passa mezzo secolo. Ma dopo Graziano, e hanno questi problemi, dopo Graziano comincia un dibattito che, dico subito, non porta a nessuna conclusione, quindi il giallo si risolve solo a metà, però dimostra, a mio avviso, due cose. In primo luogo, dimostra che un fatto di originalità di tematica, tutto il dibattito canonistico principale per quello che concerne una ecclesiologia, tutto il dibattito canonistico che si svolge da Graziano in poi, cioè dal 1140 circa, fino al 1190, cioè fino all'epoca di Uguccione, il maestro di Innocenzo III, più o meno, infatti di originalità non ne ha. È condizionato dalle mancate risposte che la lotta delle investiture ha lasciato. La lotta delle investiture non risponde a tutto. Non esiste, questo lavoro che ho già citato non risponde a quello che noi tutti desidereremmo. è utile. Tutti i lavori sono utili se fatti con un minimo di criterio scientifico, e questo Robinson è una persona seria, ha studiato con Kuttner. Ma ci sono molte più cose in cielo e in terra che non in questo libro. Allora, nessuno di noi sa quanti sono i problemi lasciati aperti. Non lo saprà mai se non avrà la forza, il coraggio, la pazienza, il tempo, il denaro, quello che volete voi, di esaminare, ma in questa dimensione, la libellistica dal 1075-1076 sino a Ivo di Chartres e oltre. Questo non è stato fatto. Cioè è stato fatto, ma in senso compilatorio. Ci sono delle ottime dissertazioni della prima metà di questo secolo in Germania, ma sono di mera esposizione contenutistica, non di aggancio problematico. Questa è una considerazione. La seconda è questa. La decretistica del secolo XII riesce a chiarificare molti problemi che non sono avvertiti nemmeno come tali in Graziano. Riesce a fare questo perché questa decretistica è molto più svincolata dall'urgenza della lotta politica di quanto non lo fosse la libellistica al tempo di Gregorio VII e Enrico IV. E infatti, se noi diamo uno sguardo a questi testi, troviamo delle affermazioni, estremamente interessanti. Il problema tecnico rimane quello della, non dell'accusabilità, perché l'accusabilità è un dato recepito, questo è un dato di fatto. L'accusabilità è un problema recepito anche perché di santità, nel senso di Agios, si parla sempre di meno, non si parla più. Ma l'accusabilità non è ancora la giudicabilità ed è tantomeno la condanna. Vediamo qualche esempio? Beh, guardiamo Magister Rufinus. Perché tutti sappiano, io non ho nessun merito se non quello di aver operato una specie di piccola sintesi. Questi testi io li ho presi da edizioni, da note di un lavoro a stampa, e li ho presi perché in moltissimi casi si tratta di testi trascritti direttamente ai manoscritti, perché non abbiamo, come tutti quanti sanno, delle edizioni. Questi testi sono stati presi da questo volume, che non è molto penetrante quanto a esegesi, è però stato molto accurato come raccolta di testi. È un volume pubblicato negli Annaletta Gregoriana di James Moynihan, Papal Immunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists. È un libro che se non avete dovreste avere per la raccolta dei testi. Ecco. Io ho fotocopiato le note, perché l'interpretazione era soltanto una parafrasi di quello che c'era scritto. Dicevo, se noi leggiamo questi testi che vanno da Rufino fino a Ubuccione, che quindi coprono quasi una cinquantina d'anni, no, 50-60 anni, noi siamo continuamente sorpresi. Rufino cosa dice? Qualunque sit, questo è, Papa, nullus de ipsius vita non solum judicare, sed nec etiam dubitare debet, quamdiu propter eresim condemnatus non fuerit. Ecco, questo direi che è tipico della inconsistenza di una certa decretistica, ma non faccio l'accusatore al passato. Rufino, peraltro, è un personaggio importante. Dunque, immaginate che non importa chi sia il Papa, non solo nessuno pensa di giudicarlo, ma non deve nemmeno dubitare di lui fino a quando non sia stato condannato per eresia. Ma immaginate, se non deve dubitare, come fa ad accusarlo? Se non è accusato, come fa a essere portato in giudizio? Se non è portato in giudizio, chi è che lo condanna? Non sono finite le sorprese. Andiamo avanti. Per eresia, come alla fine l'ultimo pezzo, no? Come in Ecclesiastici si udicis solum contra ereticos, infames accusatores videantur admitti, è quello che vi dicevo stamani, che vi ricordavo stamani. Io dico, per un caso di eresia si può anche immaginare che i testimoni non siano proprio dei fiori di galantuom, perché l'eresia è il massimo dei reati. E tisti verint accusare de simonia, il Papa, badate, accusare il Papa di simonia, l'eresia si configura come simonia. Non sono gli articoli di fede in questa fase. Allora cosa deve fare costui, anche se può essere un infamis, deve provare non sunt admittendi nisi proben prius simoniam esse eresim. Figuratevi un po', dico, c'era un'intera biblioteca su questo argomento, ma chi voleva accusare di simonia e da questo trarre la possibilità di accusare di eresia il Papa, doveva prima dimostrare lui quello che tutti i teologi del secolo XI e in parte del XII non avevano potuto fare. Ma andiamo avanti, la Summa Parisiensis. Item Dominus Papa potest iudicari ab ecclesia tota, è quello che lei mi ricordava, se cum ac distinzione si infide erraderis. Cosa vuol dire ecclesia tota? È interessante notare lo sforzo di individuare un collegio giudicante. Ma cos'è tutta la Chiesa? Vorrei anche dire una cosa. Non è una novità in senso assoluto. C'è un testo al quale io non ho fatto riferimento, un testo che forse è degli anni 48-50 del secolo XI, il De Ordinando Pontifice, anche questo attribuito a Umberto di Siva Candida, che ha tutto, no? Bene, anche in questo caso, in questo testo che fa riferimento agli eventi di Sutri del 1046, si dice che Enrico III ha compiuto una prevaricazione, perché il caso di un papa che fosse stato anche eretico non doveva essere risolto da un imperatore, ma da tutta la Chiesa. Gli storici si sono sbizzarriti, precorrimenti di conciliarismo o meno, ma in realtà non è questo, perché intanto perché poi, come vedremo, nel XII secolo si è distinto tra il Papa che è solo e il Papa che siede in concilio. Il Papa che è solo conta di meno del Papa che siede in concilio. Quindi, se vogliamo parlare di conciliarismo, immediatamente facciamo riferimento a uno spettro di terminologia tecnica che non possiamo attribuire a chi non l'aveva, caso del De Ordinando Pontifice. Voglio dire che il tota ecclesia è ancora un termine concorrenziale con il Papa, questo è importante. Cioè, il Papa non è ancora del tutto accolto come epitome generale di tutta la Chiesa. altri, dice ancora la Summa Parisiensis, in ea causa qui totam ecclesiam contingit judicari potes papa ab ecclesia. Si in ea qui unam personam contingit ver plures non. Allora bisogna che l'errore del papa riguardi veramente tutta quanta la Chiesa, ma se una persona o due o tre, no. Non vuol dire niente. Faccio solo un esempio. Ci sono dei casi di eresia, riconosciuti come di eresia da una o più persone, ma non da tutta la Chiesa. E poi chi è che definisce un'eresia? In ultima istanza, lo sappiamo anche dal Dictatus Papae, ma lo sappiamo da molto tempo prima, è solo il Papa. Farò solo un ricordo, anche perché non mi voglio tediare. Ma quando Alessandro III, nel 1177, inviò a un vescovo di Francia una lettera che poi insomma, è stata considerata una lettera decretale, circa la paritesticità della divinità e della umanità in Cristo, beh, quando fece questo, si espresse su un argomento di fede. Sappiamo che questa decretale è stata invocata proprio dai decretisti per questo problema. E perché è stata invocata? Beh, perché come si fa a dire nisi a fide devius? Quando Alessandro III scrisse quella decretale, da quanto sappiamo, dalle reazioni, scrisse contro quello che era il sentimento comune, che prevedeva l'assorbimento della umanità di Cristo nella divinità di Cristo. La vera, il Papa ha detto no, c'è una pariteticità di divinità e di umanità, riguardava un aspetto di fede. L'averlo lui detto è stato sufficiente perché tutti lo accogliessero. Ma allora dov'è tota ecclesia? Certo, qualcuno poteva dire, ma io non credo che sia così. Ma in questo caso chi sarebbe stato l'eretico? Il Papa o chi avesse contestato il Papa? Non si tratta di ipotesi, perché questo argomento è ripreso dai decretisti proprio per dire nisi a fide deviare, cioè se non ha commesso eresia. Ma quale eresia? Un'eresia che sia già riconosciuta come tale, perché se è una nuova eresis, no, perché chi può dire che è una eresis se è una novità? Solo il Papa lo può dire. Ma il Papa può dire no, questa non è un'eresia. Volete una prova? C'è la decretale di Alessandro III, lo si trova in questi testi. Io mi chiedo scusa, ormai è molto tardi, non voglio abusare, ma se avrete la pazienza troverete citato Alessandro III e questo decretale. Ma allora il problema si complica. Perché? Però un punto certo c'è. L'eresia vecchia, il Papa, che ripeta le eresie pelagiane, donatiste, ariane, no? È eretico. È stata riconosciuta l'eresia. Ma chi lo ha detto? Se il Papa si pone in assoluta libertà rispetto alla tradizione, e lo può fare, anche il Dictatus Papae glielo concedeva, potest novas leges comune. D'altra parte, cosa aveva detto Gregorio VII? La verità non è la tradizione. Affermazione gravida di conseguenza. Cioè la tradizione non vincola. Un'affermazione in cui aveva lasciato dubbioso Deus Dedit, che nel Liber Contra Schismaticos et Simoniacos, non mi chiedete il passo, il passo è in una nota del mio lavoro sulle dissertazioni sinodali. Aveva affermato, a proposito del decreto del 1059, al quale De Uslerit non dava nessun credito perché era troppo favorevole all'imperatore. È vero che l'ha fatto un papa, ma forse per questo noi dobbiamo credere che vale più la decisione di un singolo papa che tutta la tradizione dei concili e dei santi padri da quando esiste una chiesa? Assolutamente no. Ecco, voi vedete un caso di flagrante contrasto all'interno dello stesso gruppo, non voglio dire politico, diciamo tra molte virgolette ideologico. De Uslerit era un gregoriano. Quindi la nuova eresia e la vecchia eresia non bastano, perché a definire eresia, nuova o vecchia, sarà sempre la stessa persona. Qual è allora, e con questo ho chiuso, non dico, avete il testo, vi chiedo scusa, fate pure delle domande se credete, ma non è il caso, anche perché sono già le 4:10, nel caso di analizzare. Qual è allora una conclusione, quella di Uccione? Una è, non tutte le varie conclusioni. Uno degli argomenti che era stato più volte agitato da questi decretisti era che per trovare gli accusatori degni di essere accolti, bisognava porre mente a questa circostanza. L'eretico è inferiore a qualsiasi cattolico. Quindi nei suoi confronti, nei confronti dell'eretico, è data facoltà a tutti di promuovere un'accusa e di promuovere conseguentemente un giudizio e di promuovere eventualmente una condanna. Perché? Perché non vale più per l'eretico inferiore a tutti gli altri cattolici la tutela, il privilegium, no? Previsto dal Constitutum Silvestri, il privilegium della ingiudicabilità, se volete anche il privilegio della santità, perché questi valgono solo per chi cattolico è rimasto. Ma come si fa a sapere se è eretico? Perché poi, ammesso tutto, restava a questo punto. La risposta di Uguccione è abbastanza semplice, direi che è l'uovo di Colombo. Ma chi si sia macchiato di eresia, se si tratta di una eresia riconosciuta come tale, nell'atto stesso in cui consapevolmente, perché poi si distingue tra chi professa un'eresia senza sapere che è un'eresia, tra chi professa un'eresia ma senza l'intenzione di mantenere quel punto come verità di fede, e tra chi invece professa un'eresia sapendo che è un'eresia e insiste, ma chi appunto nell'ultimo caso professa un'eresia sapendo che è un'eresia e senza voler ricevere, per costui automaticamente si pone al di fuori della Chiesa, e allora non ha bisogno né di accusatori, né di giudizi, né di condanne. Da un punto di vista puramente formale, era una soluzione elegante di un problema che si trascinava da 100 anni, che si sarebbe trascinato per molti anni ancora. Da un punto di vista effettuale non era la soluzione di niente, anche perché, e con questo ho chiuso, io vorrei ricordare che proprio con questa proposta di soluzione, ma senza la possibilità lasciata a noi di verificare gli esempi, si chiudeva, 120-130 anni prima di Luguccione, come ricordavo questa mattina, il Liber Adversus Simoniacus. Che cosa avevamo guadagnato in 130 anni di discussione? Una maggiore consapevolezza del problema. Avevamo portato all'analisi estrema i testi, la preoccupazione di mettere questi testi in una gerarchia tra di loro e di formulare da questa gerarchia una deduzione razionale era un compito che non spettava ai decretisti, sarebbe spettato in qualche modo ai decretalisti, salvo poi ad arrivare all'affermazione della inerrabilità. Ma questo esula già dal compito modesto che mi ero proposto. Vi ringrazio. Un po' di cose pratiche, ecco, chi deve prendere il treno delle 5? No? Solo me lo posso fare lo stesso? Sì, bello, no, perché sennò possiamo anche così tendere un po' di più. Come volete, io sono a vostra disposizione. L'autobus alle 4:30 precise, come cioè salvo il vero di fronte alla vita fra un quarto d'ora, ecco, e bisogna prendere il biglietto, ma l'uscire ce l'ha, ecco, ci ho detto qualche macchinetta anche qua, quindi sull'autobus. Io faccio quello che volete voi. Detto questo, allora diciamo apriamo la discussione, ecco. Dico soltanto che naturalmente in un seminario come questo ci sono diversi piani di discussione. Vorrei che rimanessero aperti tutti, diciamo, cioè i piani di quelli che sono in grado di approcciare in grado sul piano tecnico. No, io non intendo tanto. Invece c'è un piano della discussione, per piani quelli più generale, che sono profani. Hanno imparato tantissimo e probabilmente sono anche dei problemi da porre. Non vorrei che anche questi problemi più generali rimanessero diciamo sottocati, e da questo solo no, no. L'oggetto della mia perorazione, insomma, ecco, alla tecnicità e alla così, diciamo, specializzazione di un discorso che è in aspettare. Cioè, non meravigliamoci e non lasciamoci. soffocare da questo. Sono possibili due tipi di interventi, direi entrambi legittimi, perché gli uni che tu hai dato sul piano più generale sono direi altrettanto importanti, insomma, anche di quelli. No, ma io poi voglio anche scusarmi con i miei pazienti ascoltatori. Questa è la mia cosa. Non è questione di tecnica sbandierata per questo motivo. Franzen, che è un maestro di diritto canonico, se l'è presa non molto tempo fa con molti giovani studiosi di storia del diritto canonico che appunto fanno un grande sfoggio di tecnica. Cito Franzen perché, non essendo giovane, ma forse più giovane di lui, mi ha sempre riservato molta benevolenza. Ma Franzen ha ragione. Solo che se noi vogliamo legare a qualcosa di concreto queste discussioni, dobbiamo procedere per questa strada. È solo questo. Quando io ho detto questo non ho ancora detto niente. I problemi, infatti, come vedete, rimangono. È importante che rimanga. Quindi, qualsiasi cosa. Scusa, appunto, io ricordo l'occasione della relazione che ho provato, mi sono un po' di più lontano, ma sono preveniti da questo tipo di speculazione, insomma, perché... Però io sono rimasto molto colpito da una cosa, appunto, forse in termini generali è risultato più importante che mi sono venuto da questo suo seminario, cioè dall'altissimo grado di formalità e formalizzazione, direi di fare, che è riscontrabile in un'epoca così anticipata, perché sono i normali delle istituzioni, ci sono casi di formalità e normalizzazione con cui si argomenta intorno a problemi che sono problemi di carattere politico, perché in fondo si tratta... Sono perfettamente d'accordo con lei. Questo per me è un punto veramente molto importante, no? Qui alla fine, secondo me, fa parecchio. In realtà si tratta di stabilire chi ha il diritto o la possibilità e quali strumenti eventualmente con cui abbia per mettere in questione il potere del Papa, la sua sovranità, il suo... Ma dica pure quello che lei vuole dire, cioè che qui è in questione il concetto di sovranità è inteso come potere di intervento sullo stato di eccezione. Lei lo ha scritto. Certamente questo è un po' il cuore del problema. Ma quello che mi stupisce non è tanto che esistesse allora un problema che poteva essere strutturale, quindi semplicemente, ma che già allora ci fosse bisogno di argomentare intorno a questi problemi in termini così formalizzati, cioè che diciamo qui. Lei si stupisce che fosse questo il livello? Sì, in certo modo, cioè, a me sembrerebbe, l'impressione mia è che il ricorso a tecniche così sofisticate di argomentazione, ricorso proprio a momenti giuridici, no? Così sottili, dovesse essere suggestivo, insomma, rispetto a questo. Ho sempre saputo e letto nei miei maestri che Vito Canonico è stato maestro, insomma, no? Ha aperto la strada per questo poi impiego della tecnica giuridica nella costruzione della teoria politica e della giustificazione. Beh, molti onori. Non c'è problema, sì. Però devo dire che questo è un esempio significativo quindi questo è come motivazione generale. Più in specifico però appunto io avrei piacere di capire meglio, no, una sua affermazione proprio in ordine alla interpretazione generale di questa parte, lei appunto avrebbe dovuto dicendo, è un indice forse, è forse un indice di una collezione canonica, e poi avanti, ha invece detto, no, probabilmente più che un indice di una collezione canonica, è un elenco di punti da coprire con una ricerca, di diritto positivo per costruire intorno al Papa una vera e propria ecclesiologia. Io ho parlato di ideologia, ma è ecclesiologia. Sono molto grato perché lei ha colto molto bene, in fondo l'unico scopo che io mi sono proposto nell'infliggervi questo seminario vedere quale grado di consapevolezza ci fosse da parte dei protagonisti di uno dei momenti che ne sono sempre più convinto è un giunto cardalico nella storia dell'Europa, L'Europa in tutti i sensi, politicamente, ma direi politicamente, perché poi in fondo tutto sotto organizzativo, no? Organizzativo significa anche concettuale, giuridico, culturale, no? Non mi accontenta, non mi basta l'idea di un dictatus papae come indice di una collezione canonica. L'idea è stata avanzata da Borino molti anni fa, è stata generalmente accolta. Ma vedete, l'indice di una collezione canonica trova prima o poi una serie di capitola. Ora, io ho sempre constatato, come vi dicevo stamane, che il dictatus papae o ha delle formulazioni negative rispetto a quella che è la tradizione, o quando non ha delle formulazioni negative, addirittura ha pronta la base del diritto positivo, rivela che questa base del diritto positivo, la faccenda è Papa Santo, è tutt'altro che accettata, accolta, no? Perché mi sono chiesto, è avvenuto questo? Una delle risposte tradizionali che troviamo in tutti i manuali è che Gregorio VII aveva chiesto appunto a Pier Zambiani di preparargli una rapida raccolta, no, di canoni. Oh, Pier Zambiani non l'ha mai preparata. Ma si è detto, beh, non l'ha preparato, però questi dovevano essere i titoli. Ora, io non so se si possa attribuire come destinatario, come ha destinatario l'indice del dittato papale a Pier Damiani. Quello che io so è che tutti i punti del dittato papale riguardano elementi controversi in un momento storico preciso e riguardano la connessione tra Chiesa di Roma e Papa. Una connessione che non è mai stata così contestata, verificata, controllata come nel momento preciso della lotta delle investiture. Mi viene spontaneo, naturale, immaginare che nella profonda consapevolezza che i protagonisti di questa lotta avevano della posta che era in gioco, perché era una grossissima posta, si sforzassero di riassumere in una serie di punti chiave gli elementi di dibattito. Elementi di dibattito, se volete, anche come promemoria per se stessi. Perché se no tanti dittatus papae? Scusate, se fosse vera in senso assoluto l'ipotesi del compianto Borino, voglio precisare una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere Don Borino e di avere la sua benevolenza, io devo molto Don Borino, quindi non c'è niente di personale, del resto non c'è niente di personale nel superamento della storiografia. Ma dico, se fosse vera quella ipotesi, noi dovremmo immaginare che perlomeno tre volte, rebus sic, cioè senza pregiudizio del futuro, Gregorio VII avrebbe indicato dei canoni da riempire. E allora, dato e non concesso, perché tanti punti in comune? Se io voglio una collezione di canoni su dei punti per i quali non ho trovato una base di diritto positivo, la faccio una volta sola. Non lo faccio tre volte. Se lo faccio tre volte, i punti devono essere tutti diversi. Questo dobbiamo sempre, certo sono ipotesi, ma dico, la storia si fa anche con ipotesi razionali. E l'uomo, nella fattispecie, era molto razionale, perlomeno i suoi fini, diciamo, politici, tra virgolette, li voleva raggiungere. E allora se indica tre volte una ipotetica collezione di canoni, beh, signori miei, che siano almeno diversi. E invece non sono diversi, se non, come abbiamo verificato, in qualche punto. Guarda caso, proprio in qualche punto più discusso, più soggetto a variazioni. Io non voglio discutere adesso sulle ipotesi avanzate da Mordek e da Keynes, riprese, corrette, anche in un intervento che si è tenuto nel 1977 a Reggio Emilia a proposito di queste autoritatis apostolicae fidei da una mia allieva. Queste cose degne della massima considerazione, ma che non rispondono al nostro proposito. Io voglio solo dire che comunque siano da collocarsi cronologicamente queste cose, rimane un fatto che mentre si moltiplicano i dittatus non si trova nemmeno mezza collezione canonica. E allora cosa sono i dittatus pari? Sono dei punti di discussione. Ma questo sarebbe ancora niente, c'è qualche cos'altro. Io non so se mi basteranno le forze per farlo, però è una cosa che mi permetto di indicare ai più giovani, ce ne sono alcuni qui che possono essere interessati. Perché non si prova proprio attraverso questi testi e tantissimi altri? Moynihan merita la gratitudine di tutti gli studiosi per lo sforzo che fa, e purtroppo è un libro che è molto utile. Non è molto penetrante, forse. C'è, per questa parte almeno, è una parafrasi, cioè la spiegazione in inglese del contenuto latino. Però, viva Dio, ci ha messo a disposizione un materiale molto importante. Perché non proviamo a prenderci ogni singola proposizione dei vari dictatus e vedere se nel dibattito, ma non nel dibattito immediato, ecco perché io non credo che sia solo l'indice di una collezione canonica, ma sia la serie di, cioè l'indicazione di una serie di difficoltà, di cruces canonistiche. Non proviamo, scorrendo decretisti, no? Sino alle decretali, anche quello che ci potesse essere nelle compilazioni, non proviamo a costituire un dossier di possibili supporti a ognuna di quelle proposizioni. Qual è lo scopo? Lo scopo è solamente, e qui sono ancora una volta d'accordo con Schiera, di costruire una linea politica. Noi parliamo sempre di linea politica di Gregorio VII, ma dov'è che la si trova? Nella immediata contestualità? No, manca molto ancora da fare, cioè dobbiamo trovare ancora molte cose nella libellistica. Ma non dimentichiamoci di una cosa, che è una notazione che io ho fatto da molto tempo. Questo sforzo grandioso di riverifica, di controllo di tutta la tradizione della Chiesa e della società cristiana, in fondo, che si opera alla fine del secolo XI, sembra nei secoli successivi non lasciare traccia. Molti anni fa per preparare una piccola comunicazione, io mi sono letto buona parte della Concordanza Cattolica di Cusano. E ho ritrovato moltissimi di questi temi, riproposti negli stessi termini, ma non ho mai trovato una menzione né a Bernoldo, né a Ivo, forse a Ivo qualche volta, sempre a Graziano magari. Mai, dico mai, il nome di Gregorio VII, che non è mai menzionato da Dante, perché non è mai menzionato. Questo per me è uno dei più grossi misteri della storia medievale, e non per patriottismo di argomento. E vi dirò che preparando questo seminario, e per questo vi sono anche molto grato, forse ho cominciato a vedere le cose in maniera diversa, ma certo che non è menzionato. Era così ovvio che si dovesse proseguire una discussione di cui erano stati forniti da lui i punti, e che l'importante non era ricordarsi della partenza, ma semmai dell'arrivo, proprio perché erano punti senza soluzione apparente, che alla fine nessuno ha ricordato la partenza, ma ha preferito ricordare i punti di arrivo. Se voi prendete la letteratura storica, buona letteratura storica, su questi problemi, dell'Isia Fide, eccetera, voi non trovate citato nemmeno uno di questi decretisti. Io ho un libro qui, importante per la funzione che i cardinali avevano, no, nel governo della Chiesa, e anche sulla possibilità che i cardinali avessero la giudicabilità del Papa in caso di eresia. Ad esempio, Sicardo di Cremona, che è uno di questi, e che parla esplicitamente dei cardinali, non è ritornato. Perché? E appunto perché? Perché abbiamo reputato importante chi ha rotto un sistema, non chi si è preoccupato di costruirne uno nuovo. Questo capita. Direi che la nostra tradizione storicistica ci porta proprio a questo, ed è giusto che questo sia un elemento da tenere presente. Ma attenzione, se una continuità dobbiamo mantenere, sia pure dialettica, questo è il caso. E quindi ecco perché io penso che forse a quella domanda che mi è angoscia da tanti anni, come mai nessuno si ricorda nel Medioevo di queste cose, Gregorio VII credo che non sia mai citato, quasi mai. Un'altra cosa, la libellistica antigregoriana è testimoniata da codici tardi, molto tardi. Un solo esempio per tutti, il Liber de Unitate Ecclesiae Conservanda, che viene fuori in un manoscritto dell'epoca della Riforma. Ma molti di questi testi sono molto tardi. Basterebbe leggersi le prefazioni degli editori dei Libelli. Come mai? Ma forse perché fra XII, XIII secolo, anche XIV, questi argomenti avevano trovato una loro sistemazione. E quello che importava non era fare la storia, perché la dimensione storica non era del Medioevo. Quello che importava era giungere a una conclusione. Prego. Grazie per l'interessantissima relazione. Io vorrei appunto sottolineare il fatto che vari testi erano dimenticati a quanto tempo. Lei ci ha parlato del 1059, del decreto di elezione, passa al decreto. Mai nella discussione sul Papa Vero, né nel documento riferimento a Status Bart, parte presente sul diritto positivo per il bene del libro, per sottolineare una forma di argomentazione cambiistica, una mentalità diversa. Questo potrebbe essere legato a altri riferimenti, vuol dire, della Bibbia. Allora, spesso sì. Un argomento della scrittura è solido quando viene riferito alla Bibbia. Certo. Dunque tutta la discussione deve essere un po' ridimensionata, mi pare, perché si è parlato soltanto di questo testo di Enodio, sì. Ma si deve fare una piccola ricerca quando, per esempio, l'Esodio VII parla della Bibbia. Ah, sì, certo. Per, sì, ma non nel caso specifico. Nel caso specifico no, ma in altri casi, per esempio, nel 22, se non sbaglio. Ah sì, ma maledictus homo qui sì. Proibet se, certo, sì. Certamente. Poi una domanda. Nella prima parte di questa mattina si è parlato dell'elezione del Papa. Sì. E ad osservare che sono vari concetti, ordinatio, contestatio, intronizzatio. Secondo me la maggior parte delle difficoltà risulta che non c'era un sistema, un modo di procedere di chiaro. Sì. Cercava di nascondere questa difficoltà dietro termini generici che non servivano. Ecco. E poi no. Ma sono molto grato, collega. Per quanto riguarda il primo punto, cioè la citazione del Pax Vallis, no? Questo è vero, non se ne parla, non se ne parla molto. Chi ne parla diffusamente è appunto Pier Damiani della Disputatio Sinodale. Ci sono degli accenni nella polemica tra Anselmo e Guido di Ferrara, non più che accenni. C'è invece un accenno molto chiaro ed esplicito nel Libellus contra invasore testimoniacos di Deo et Edit. Avete la serie di studi gregoriani? Ecco, non ricordo più se nel nono o nel decimo ci deve essere questo mio lavoro sulla discendenza. Io ho rimandato lì, ma comunque non ha nessuna importanza. Se il professore avrà la gentilezza di darmi il suo indirizzo, mi permetterò di mandare. Però è un fatto che non se ne parli. Non solo, ma proprio qui a Trento, io 2 anni fa, ho affrontato, e il professor Irman era presente, e il problema che si pone al momento di un altro scisma, quello tra Vittorio IV e Alessandro III. Anche lì è un problema di correttezza di procedura. Certo, si presuppone il decreto del 1059, ma in maniera sempre molto sfuggente, come cioè se fosse un testo sempre da ridiscutere. Fino a quando non si arriva a una formulazione quantitativa ad opera di Alessandro III, per quello che concerne la elezione. Si è discusso moltissimo, e il professore lo sa meglio di me perché studia lo sisma del 1130, anche allora, Samior, Maior, Pars, non si riesce a definire molto bene. Un esplicito riferimento non c'è. Perché questo? Io credo, in primo luogo, in epoca gregoriana e deliciana, o post-gregoriana, direttamente post-gregoriana, perché quel decreto non aveva assolutamente quel carattere così favorevole al papato riformatore come gli storici hanno supposto. Il decreto, torno a ripetere, ha in sé una portata molto più limitata. Era nato in circostanze particolari. In secondo luogo, proprio Deuridit dichiara in maniera esplicita che questo testo ci è arrivato in condizioni estremamente discutibili, è un testo corrotto. Già nell'undecimo secolo si aveva la sensazione netta che sulla base di quel testo una discussione molto impegnata non si sarebbe potuta fare. È un fatto che i gregoriani, Alessandro II, Gregorio, non ne hanno voluto sapere. È un fatto che sono stati soprattutto i cardinali che hanno visto messa in evidenza la loro funzione al momento delle elezioni a richiamarlo. È anche un fatto che da una posizione esclusiva dei cardinali vescovi si è proceduto ad allargare la funzione primaria a tutti i cardinali. Questo per il decreto. Quanto al fatto che ci sia in Gregorio VII anche la ricerca di qualche altra cosa oltre che il diritto positivo, è indubbio. Anzi, direi che è proprio necessario pensare al frequentissimo e molto maggiore ricorso alle autorità della scrittura di quanto non sia il ricorso al diritto canonico. Però è anche un fatto che l'incidenza nella polemica, nella lotta, no? Nella lotta ideologica maggiore si è avuta proprio perché in qualche modo l'atteggiamento di Gregorio VII, atteggiamento non rigido, non formale, anzi in qualche maniera paradossale, perché invocava contro quella che era una prassi canonistica, invocava molte volte, grazie tante, invocava passi della scrittura o concezioni di carattere morale. Bene, proprio questo però, questo fatto, ha dato come esito un ripensamento, ma in termini istituzionali, e questo è un dato di fatto. Direi che il dramma di Gregorio VII, si parla spesso di chiesa, l'ha detto anche Congarno, giuridicizzata ad opera di Gregorio VII, io personalmente non sono d'accordo, che non credo a una volontà consapevole di Gregorio VII di giuridicizzare in senso tecnico la Chiesa. La prova migliore l'abbiamo avuta anche oggi, cioè tutto il lavorio giuridico comincia dopo e comincia in seguito a una serie di punti lasciati giuridicamente non risolti. Questo però è il suo dramma di uomo profondamente religioso, appunto il ricorso continuo alla scrittura, il bisogno di avere un modello soprattutto nella scrittura, ma un modello però nei riguardi di che cosa? Nei riguardi della storia della Chiesa, della società cristiana quale in tanti secoli si era costituita, quindi con delle istituzioni, con una base giuridica o presunta tale per queste istituzioni, di cui il conflitto tra morale e diritto, che è poi alla base di una nuova interpretazione del diritto, che è perlomeno lo stimolo a una nuova interpretazione del diritto. Ecco come io mi permetto di vedere la funzione di Gregorio VII come promozione involontaria di una esegesi giuridica. Ecco, insisto molto, promozione involontaria, se volete promozione oggettiva. Non credo che Gregorio VII si sarebbe mai riconosciuto nelle discussioni dei decretisti o tantomeno in Graziano. Graziano non ritiene un gran conto. Ma non credo nemmeno che Gregorio VII, parliamo per assurdo, ma qualche volta bisogna fare delle ipotesi, avrebbe potuto negare che molte di quelle discussioni di carattere puramente formale avevano preso l'avvio proprio dai suoi atteggiamenti non formali e non giuridici. E questo è il dramma, cioè il dramma vero della personalità dell'uomo, della personalità, e adesso non esageriamo, anche tutta una cultura, non per niente c'è il divorzio che si consuma lungo il XII secolo tra teologia e diritto canonico. Questo divorzio Gregorio VII non l'avrebbe, non solo non lo ha compiuto, ma non lo avrebbe probabilmente mai ammesso. Però era nella logica delle cose. D'altra parte, e qui rispondo un pochino anche all'amico Schiera, questo gusto della dialettica era attestato anche da prima. Lanfranco, Berengari, e prima ancora Gotescalco, Rattrano, Pascasio, quando incomincia il dramma di questa cultura? Non incomincia con Gregorio VII, incomincia in epoca carolingia. Con Gregorio VII si è trovata la persona che ha azzerato, se possiamo esprimerci così, tutto. E ha detto, beh, allora ridiscutiamo tutto. Non lo ha definito il nuovo sistema, però ha perlomeno dichiarato che il vecchio era finito. Prego. Sono molto convinto e impressionato di quanto lei ha posto dall'Iraq. Personalmente direi la condizione che più mi ha fatto impressione, come potete anche certe impostazioni, è l'aver toccato con mano come questi canoni sul Papa eretico, contrariamente a quanto ritenevo, non sono un'eredità positiva di avversi canoni che è passata dentro anche dopo l'epoca gregoriana, semplicemente per una permanenza del fatto positivo entro il diritto canonico. Se ho capito bene, veramente questo viene smentito dai riferimenti ai canoni di Marcellino e a tutte queste cose, che invece ragionano in modo molto coerente con il canone di Sardica prima sede, neanche se si tratta di eresia, no? E questo viene fuori molto bene e convince anche molto, veramente al punto da dover, dopo questa constatazione, mettere parecchia acqua nel fuoco in quella tesi che tengo sempre presente di un Ulrich Stutz, insomma, con il decreto realisti si sarebbe operato un grande colpo di stato entro la struttura ecclesiale, perché da un diritto obiettivo tradizionale si è passato a un diritto soggettivo che fa male. No? È evidente che non la condivido in questa forma, ma sì, certamente. Però era uno dei punti dove, insomma, in tutto direi anche di fronte a questa coerenza che naturalmente dai gregoriani viene poi interpretata con una densità del tutto particolare, anche di fronte veramente a un'esplosione di coscienza, un'esigenza di coscienza di quello che è la Chiesa come sua realtà spirituale, evangelica, apostolica, eccetera. Continuamente stamattina ti è d'accordo, in tutta la tua esposizione ho avuto molto presente veramente il ragionamento teologico di Leone Magno, no? Che senza dubbio qui continua a incombere in questi ragionamenti. Io non so se per traduce diretto, cioè si riferivano esplicitamente a lui, o per risveglio di coscienza. Ma senza dubbio quella teologia che di fronte al metodo della scolastica è una teologia strana e poco non è nemmeno teologia forse, insomma, quella teologia della presenza attuale di mistero, Pietro che confessa Cristo che lo costituisce, no? Nella persona del successore, per quanto indegno, ma come tale è veramente costituente il Papa in quanto Papa. Sì. Mi pare che è veramente l'idea teologica che domina fortissimamente questo discorso, per cui non si tratta di teologia di scuola, ripeto, può trattarsi anche di teologia discutibilissima a livello di intuizioni e forse capite meno nel secolo X di quello che l'avrebbe capito Agostino o insomma Leone Magno, ma che quell'eredità lì si gioca dentro in una maniera potente in tutta questa questione, e che solo in quella chiave va letto anche questo concetto della esemplarità del Papa, del modello, del fatto che certamente questa è l'idea che poi insomma anche per certi versi dire, per tradire qualcuno, che il Papa è per questo verso il capo della Chiesa dopo Cristo, no? E quindi il punto di partenza verso una traduzione del tutto in termini di autorità, in termini di vita. Questo è vero, ma lei ha nominato per l'ultimo Congar, insomma, anche sul Congar proprio direi non è da prendere tutto in termini troppo semplicistici, perché lui, secondo me, c'è veramente un rompere di autentica fede cristiana, un'intuizione profonda della realtà Chiesa e di ciò che certi misteri dentro la Chiesa, certi sacramenti, diciamo, all'interno di quattro, che non sono soltanto il battesimo, l'Eucaristia, ma sono anche certe persone nelle quali certi misteri della salvezza si riproiettano, hanno un ruolo dentro la Chiesa, La codificazione successiva della scolastica, secondo me, è quella che ha avuto come contraccolpo poi la giudificazione di tutto questo in termini di ultimi. E veramente io ho sentito un po' io una rispondenza profonda, in questo caso della storia della Chiesa, guardandola nelle sue radici più profonde, con una fede, con una teologia, una lettura teologica di queste cose, a me pare che diciamo, se noi andiamo poi per forza le cose ci siamo costretti a semplificare le cose. In questo caso, in questo senso, volevo in tanto qua modo, al di là di tutto quello che va benissimo, c'è una questione di legittimazione del potere, certo, di queste cose, ma secondo me la è soprattutto un momento di coscienza mentale, anche se potrei spesso domandare per l'impressione di Gregorio VII, dice esperimento finale, se non posso contenere, è una attenzione che io la opera come probativa, costi di fatto apportato al caso di ragionamento, ma la vede lì come per una testimonianza personale. Se non si identifica in modo suo una specie di coscienza carismatica, io sono parlo perché ho sentito questo evento di Italia di Cristo in una maniera indefinibile che, no, al di là di tutte queste formalità, se non possa riferirsi anche una sua esperienza carismatica che rientra in questo caso, e non escluderei quello che lei ha detto della catena di tanti passi precedenti, ma che fosse ricca anche in quella medesima luce per una certa congenialità. Noi ci conosciamo col cuore questo filone di uomini che hanno portato avanti la santità di Chiesa. Ecco, qualche genere è stato di questo rapporto Papa e Bibbia, messo in termini così antitetici, quasi che torniamo verso quel pericolo che è in questa edizione, perché al posto della parola di Dio si pone il magistero. Ecco. C'è una nuance in questo senso che va nel testo di Deus, però è ancora causa abbastanza tempo per dire che magis, cioè più che dalla voce dei predicatori e dalle sacre pagine, dalle tradizioni, dalla lettura che va a parte di questa tradizione cristiana e della stessa scrittura. Mi pare che ancora condivido i termini che compongono questo, però naturalmente sono neanche la scrittura come pagina secca a sé stante, è l'espressione fondante e normativa della fede. Ecco, se Alessandro VI, io mi sono guardato in quel testo, mi pare che sia un riferimento troppo scoperto al Consiglio Cattolico, ai termini di cui Cattolico definisce la posizione anti-nestoriana, per attribuirlo troppo a lui. Non avevo idea, lui in quel senso che stavo dicendo prima, è pur sempre fatta la voce autentica del vero senso della tradizione ecclesiastica della situazione attuale. No? Ma ecco, un poco come problema è ma io ringrazio molto. Dirò subito una cosa a proposito dell'ICET esperimento siamo. Io sono d'accordo. Certamente, è solo una consapevolezza carismatica poteva portare Gregorio VII a dare quella interpretazione della storia della Chiesa. Direi che d'altra parte Gregorio VII più volte ha dichiarato di porsi con questa coscienza, no, di tutta la Chiesa, di tutta la storia della Chiesa, no? Quindi che ci sia una forte partecipazione, no? A questo senso pneumatico, no? Io sono assolutamente d'accordo. Anche perché una cosa, come lei stesso ricordava, non esclude l'altra. Poi, per quello che riguarda Leone Magno, sì, sa cos'è? Leone Magno è un grande sconosciuto negli studi che noi facciamo su questo periodo, anche perché non è più frequentemente citato da Gregorio VII. Gregorio VII ha una predilezione, è il suo omonimo, Gregorio Magno. Forse bisognerebbe stabilire qual è il rapporto tra Gregorio Magno e Leone Magno, e vedere quanto, anche per motivi di tradizione, perché certamente Gregorio Magno era molto più conosciuto, almeno in quest'epoca, di quanto non fosse Leone Magno. Gregorio Magno aveva avuto una fortuna di epitomatori. Pensate quante volte si riferisce addirittura il registro di Gregorio Magno attraverso il suo biografo, non è il registro di Gregorio Magno, ma è il biografo e epitomatore. Quindi il suo lo accolgo come un invito a pensare in termini teologici, non in termini di trasmissione di testi, perché in termini di trasmissione dei testi una valutazione quantitativa mostrerebbe che Leone Magno, anche perché poi un'altra cosa, Leone Magno non ha una gran parte qui dentro, e questo condiziona indubbiamente molto. Le storie siciliane, non credo che Furman abbia ragione quando dice che non si può attribuire tutto alle sedi siciliane, erano già note poco tempo dopo la loro compilazione, però proprio perché erano già così note hanno forse contribuito a costituire una specie di diaframma. Ma in termini di teologia del primato, in termini di funzione del Papa, quindi di teologia del Papa, di ecclesiologia del Papa, è fuori di dubbio che per comprendere certi atteggiamenti di Gregorio VII bisognerebbe ripartire da Leone Magno. Sono pienamente d'accordo con lei, ma in termini di teologia, in termini di verificabilità e quindi documentabilità storica, diritto canonico purtroppo è solo tradizione, tradizione di testi. I testi sono intesi per quello che sono. Se noi ci mettiamo da un punto di vista teologico, facciamo bene per capire l'essenza di un pensiero teologico, e facciamo ancora meglio se questa essenza del pensiero teologico la attribuiamo noi a chi di dovere, in questo caso Leone Magno. In termini di storia della tradizione, noi dobbiamo accettare un po' le cose come le avevano questi grandi personaggi, come le recepivano. È probabile che si debba tener conto di due aspetti. Però lei mi ha anche posto alla fine un altro problema, quello di Alessandro III. Sì, sì, certo. Fate però che, come lei avrà visto da questi testi, immediatamente si cattura non quello che c'è dietro Alessandro III e quindi un'antica controversia teologica, ma si cattura la decretale in quanto di un papa. E allora ecco perché oggettivamente si ha la sensazione che è la traduzione in termini giuridici di un pensiero che scontava tutta una teologia, ma molto molto più antica di Alessandro III, che sia questa traduzione in termini giuridici a coprire, a sopravanzare la stessa ecclesiologia, la stessa teologia che c'è ancora in gran parte in questi testi. Vuol dire che la necessità della lotta ideologica, che poi non era solo lotta ideologica, perché basti pensare a tutta la discussione su che cos'è il beneficio ecclesiastico, su che cos'è cosa sono le res ecclesie, che hanno una larghissima parte. Oggi avevamo già un tema abbastanza ampio, ma bisognerebbe fare una indagine molto accurata sulle res ecclesie. C'è questa necessità di controbattere su questioni molto precise e inevitabilmente riferentisi a un contesto politico, che porta decretisti e libellisti a tentare una traduzione in termini puramente formali, quella che era appunto una ispirazione non riducibile a formule, a canoni. Poi lei mi ha aveva chiesto però anche un'altra. Ah sì, questa contrapposizione. Sì, io sono d'accordo. Non è che si dichiari apertamente la parola del Papa vale più della Sacra Scrittura. No, è giusto quello che lei dice, c'è molta cautela. Sa però una cosa che mi ha impressionato, leggendo, rileggendo questi testi, è pensare al punto di arrivo. Io ho studiato, ma per tutt'altro motivo, un magister che è stato uno dei primi allievi italiani di San Tommaso, un fiorentino, Remigio. È uscito da un anno, e credo che nell'ultimo numero dell'archivio Mistoria Pontificia ci sia una recensione dell'amico Davis, una edizione del Contrafalsus Ecclesiae Professoris, che è un trattato curiosissimo, come molto curioso è il personaggio anche per altri, è un poligrafo, ha scritto anche troppo. Bene, siccome io avevo il microfilm del codice che conteneva questo trattato, io così ho letto, ho utilizzato anche prima dell'edizione certe cose. E quello che mi ha impressionato è il paradosso. Ai quali questa esegesi formale del potere del Papa poteva giungere. Remigio non è un estremista, Remigio è una persona dotata di molto buon senso, forse di troppo buon senso, cioè un uomo medio, direi noi oggi. Però arriva a porsi problemi di questo tipo. È più potente il Papa o Satana? E la sua conclusione è che certamente è più potente il Papa, perché Satana non può fare che il male, e il Papa può fare il bene e il male. Allora, con questa prospettiva, uno ha sempre l'impressione che l'esegesi formalistica, e Remigio non era un canonista, era un teologo, e la strada inevitabile sia quella della equazione finale e il Papa è come Cristo, il Papa è come Dio. Non volevo dirlo così. Vedete, grazie. Io credo che anche per i non addetti alla canonistica medievale, alla medievistica, quando ci ha detto oggi il dottor Capitani, da un lato mette fine o continua a porre fine o a ridimensionare la visione di una storia della Chiesa medievale o comunque la Chiesa post-mille in termini di contrapposizione tra collegialità e papato. Oh. Non lo dico in riferimento evidentemente a niente, ma lo dico in riferimento al manualetto, ad esempio, di storia. No, non è quello che assolutamente non fa, un altro. A un manuale che è uscito dalla Cagliari Sedan, a numero di studenti universitari. Ah, lo conosco. Che appunto interpreta complessivamente la storia della Chiesa e della canonistica in particolare. Con questa contrapposizione mi sembra che la storia della Chiesa del secondo Medioevo è la storia di costruirsi politicamente il papato come monarchia, e il professor Capitani, per ragioni di tempo, di spazio e di temi specifici, ha lasciato le sue stesse considerazioni, i suoi stessi studi, ad esempio su una famosa ricordare di Innocenzo III, che avrebbe poi illustrato in modo perfetto questo processo. Il secondo punto, perché tu viene una considerazione, se volevo chiedervi se riteneva che una certa quale inconcludenza della riflessione canonistica degli anni 40-90, per usare il suo taglio cronologico non dipenda forse da quella che Dabbato aveva si possa mettere in connessione con quando l'aveva ritrovato Dabbato in un convegno della Nebra, cioè sulla interpretazione, sulla applicazione moderata della ierografia in questo senso. Cioè se in certa misura, estremizzando per far meglio comprendere quanto voglio dire, gli stessi canonisti hanno paura di portare a estreme conseguenze quei punti, quei problemi che il papato gregoriano aveva aperto, no? Perché Rufino, ad esempio, è quello che riconosce sì la superiorità giuridico-politica del papato, ma al tempo stesso salva un'autonomia, se ben ricordo, di funzionamento del regno, no? Quindi mi chiedo se proprio quella prospettiva che lei ha illustrato dal punto di vista concettuale, metodologico, di questo rapporto tra coscienza del sistema e sistema, si possa vedere anche una spettatura, le radici di quella che sono dentro. Il terzo punto è questo. Per quanto riguarda i miei interessi più specifici, ma molto interessato al problema del rapporto tra autorità o carisma pontificio e le sue connessioni con San Pietro. Perché è a tutti noto che uno degli argomenti che venivano attribuiti agli eretici, in particolare agli eretici di orientamento evangelico pauperista, era che la santità e quindi l'autorità del Papa dipendeva dalla sua conformità al modello di San Pietro. Vale a dire, se il Papa non era tanto santo quanto lo era stato San Pietro, non aveva autorità. No? Anche se da questa affermazione, non essendo gli eretici dei canonisti, quando lo sappiamo, e non essendo neanche delle conseguenze così rigorose, esiste una contraddizione spesso, perché taluni affermano l'autorità del Papa di emettere e decretare, invece per poi non riconoscergliela se non si comporta come Pietro, ma qui ci sorge una questione politica. Ecco, volevo dire, è possibile individuare all'interno stesso della riflessione canonistica di età gregoriana o anche successiva qualche elemento di aggancio con quell'affermazione che normalmente viene interpretata in quello donatistico, tra virgolette, degli eretici, cioè questo ridurre alla divinità personale la capacità sacramentale. Grazie. Dunque, quanto riguarda il primo punto, cioè quello della autocensura dei canonisti in vista della costruzione ierocratica, ecco, io devo dire questo. So benissimo che Tabacco pensa realmente questo, e so anche perché lo pensa, perché in sostanza abbiamo avuto anche un vivace scambio di idee a Reggio su questo punto. Tabacco è portato a saldare lo svolgersi del pensiero canonistico e ecclesiologico da Gregorio VI a Bonifazio VIII, ma sapendo, come non può non sapere un uomo che si chiama Giovanni Tabacco, che questa saldatura è proponibile solo nelle potenzialità. Ecco, è indubbio che c'è un forte fascino in questa impostazione, e che io stesso non posso non condividere, perché credo ancora, nonostante tutto, alla dimensione storica, che è la dimensione di un processo. Però io ho anche molto rispetto della individualità storica, e direi che questo rispetto mi è venuto crescendo da quando, e sono ormai ahimè troppi anni, mi occupo di queste cose. Se io credo nella dignità di ogni singola posizione, non solo perché altrimenti non potrei occuparmi di storia del diritto canonico in modo del tutto particolare, ma anche per quello che dicevo stamane, c'è una dimensione di lavoro di questa gente. Affermare che c'è un'autocensura significa concedere loro una capacità di lavoro meramente, no, meramente sbagliato, ma una capacità di lavoro prevalentemente deduttivo. Io non credo che loro non fossero capaci di deduzione, altrimenti la casistica non sarebbe mai nata. Però, merlo, loro deve dare atto che loro si prospettano una serie di casi con un preciso riferimento, alidi conto, tutti intorno a un testo. Non è detto che non ne vedano le conseguenze estreme, beh, anche Graziano le aveva viste, no? Nei vari dicta, nei vari preamboli, no? Le distinzioni tra le questioni, tra le cause, proviamo. Ma direi che a loro interessava di meno. Interesserà molto di più una speculazione del tipo di quella che ricordavo poc'anzi: può il Papa essere più potente o meno potente di Satana, che è una pura speculazione deduttiva, che non i canonisti, abituati appunto per mestiere a lavorare su testi, i quali certo possono dar luogo a estrapolazioni. Ma direi che i canonisti in questo si scoprono molto di meno rispetto a quello che fanno i loro colleghi nell'ambito civilistico. Non c'è nulla di simile al fenomeno della superfetazione della glossa, come è avvenuto per Accursio. Perché a un certo punto non solo non si sa che cosa è di Accursio e che cosa non è di Accursio, ma non si riesce più a distinguere qual è il testo da quella che è la glossa. Questo avviene anche nel diritto canonico, ma ed è naturale che ci sia una maggiore remora. La differenza sostanziale è che a intervenire eventualmente e a correggere o scompaginare tutto, i canonisti avevano sempre il Papa, il diritto romano era quello che era, quindi nessuno poteva intervenire a dire se un passo delle istituzioni, del codice, delle novelle o del digesto doveva essere inteso in una maniera o nell'altra con un'autorità sanzionante, perché gli imperatori vivi a quell'epoca erano morti da molto tempo. Quindi è vero che c'è una cautela, però è anche vero che questa cautela nasce da una professionalità. Direi tanto più cauta quanto maggiore è la coscienza delle difficoltà enormi che avevano nella interpretazione. Che difficoltà enormi ne hanno avuti i glossatori nei riguardi del digesto, nei riguardi di tutta la codificazione romana, che certo era molto più raffinata e avanzata di quanto non fossero i primi tentativi di codificazione canonistica. Non dobbiamo meravigliarci che i canonisti ne avessero, Poi vorrei anche aggiungere una cosa. L'abitudine a questo processo induttivo e non deduttivo porta molto spesso i canonisti a non essere i più tenaci assertori della teocrazia. Questo potrebbe essere il tema di un altro seminario, non è che mi offra oggi. Ma quanti sono i canonisti che hanno veramente difeso a spada tratta le posizioni più, come diciamo oggi, avanzate o più estremistiche del pensiero teocratico? Ma soprattutto, quanto si deve al concorso delle circostanze per la formulazione in maniera molte volte brachilogica di certi principi? Direi che sino a Gregorio IX si ha l'impressione, anche in un Innocenzo III, alla fine di queste pagine, tempo è quello che è, ma troverete, perché dovrebbe essere stato riprodotto, una disputa tra Uguccione, che era stato il maestro, e Innocenzo III. Ma Innocenzo III a un certo punto dichiara: no, no, il Papa può essere messo sotto accusa. Bisogna poi riprendere questo testo, vederlo nel suo contesto, qui non è fatto, io non avevo nemmeno il tempo materiale per fermarmici. Ma voglio dire che c'è una, almeno fino a Gregorio IX, c'è nei canonisti un senso io non voglio dire più scettico delle cose umane, ma più prudente, perché manca quella assoluta certezza della ratio iuris che c'è invece nei romanisti, una certezza che poi naturalmente svanisce allorché questa ratio iuris dei romanisti si scontra essa stessa con quella realtà multiforme, molteplice, che è la realtà politica dell'Italia del 200, no? Quando arriviamo a uno ius comune, quando Bartolo Principe, no, però è il primo a dire che certo, esiste una legge che è quella romana, ma tanto più è generalizzabile fino anche alle realtà politiche che non erano state mai previste dalla legge romana, quantomeno quella legge romana si identifica ormai con una precisa persona come fonte del diritto, con una precisa istituzione come poteva essere l'impero. Quindi è vero quello che lei osservava, cioè se una oggettiva moderazione attribuibile probabilmente a due cose, a un'autocensura perché poi in fondo al di sopra del canonista c'è sempre il Papa, ma anche per abitudine a lavorare su pezzi, almeno in questa fase. Poi ci saranno le decretali, il liber secula, le primissime, ma allora siamo in marcia. Quanto agli eretici e ai carismi, sì, certo, direi però che allora è una vecchia disputa. I meriti personali e la dignità come corrispettivi dell'ufficio. E certo è una polemica degli eretici, ma questa stessa polemica è fatta alla fine del secolo IX, inizio del secolo X, durante tutta la disputa formosiana. Se noi prendiamo gli scritti di Ausilio, in senso del defensor, eccetera, eccetera, noi ritroviamo pari pari tutti gli elementi della discussione di Umberto, di Silva Candida, di Pier Damiani. Una delle certezze acquisite dallo studio esegetico dei canonisti è che nella disputa sulla validità o invalidità delle ordinazioni simoniache, certamente il secolo XI aveva una conoscenza dei precedenti immediati molto più ampia di quella che si potesse supporre. Vorrei dire che la ripresa di certi temi avviene perché questi temi sono usciti ormai nel corso della lotta della riforma gregoriana, sono usciti dall'ambito ristretto del dibattito libellistico, hanno trovato un'occasione concreta di verifica, e basta pensare ai Patarini e a tutto quello che lei meglio di altri sa. Che poi si riprenda questo, ormai non bisogna essere canonisti per discutere di certe cose. Direi che la tragedia di chi le discute, la grande tragedia degli eretici, è che quando discutono di queste cose la risposta formalizzata ai loro quesiti è stata data da almeno un secolo. E quindi c'è